Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. È il momento dei santi. È il momento dei cardinali. Santi, è il momento dei cardinali. Cardinal Giannino. Sì, beh, per veramente Cardinal Bagnasco, vedremo più tardi. Però detto questo, per i santi. Allora, oggi scopriamo, per chi non lo sapesse, che anche la Chiesa ha il suo Einstein. Ah, non faceva il fisico, che faceva il vescovo, sì. Faceva il vescovo, e soprattutto nel XII secolo con i re norvegesi, insomma, era un po' delicato il periodo. Lui lavorava, per così dire, era molto appoggiato da re Inge Krokrig, il gobbo, per così dire. E questo Sant'Agostino, Einstein, appunto, è la risposta della Chiesa, che viene prima del fisico, però si chiama allo stesso modo. Mi fa molto sorridere questa cosa. Naturalmente ha fatto una brutta fine questo Sant'Agostino Einstein, come la maggior parte dei santi che vengono. Sant'Agostino Einstein. Sì, sì, Einstein, come Sant'Eogene, San Paolo Romana, che è la patrona delle vedove, si trasferì a Betlemme. Questa però è una storia di grande pietà e edificazione, sicuramente storicamente accertata, ma in realtà oggi soprattutto sono Tito e Timoteo, che sono i due discepoli di riferimento di San Paolo nel costruirgli la prima catena gerarchica, da cui deriva la Cei Bagnasco oggi. Nei Vangeli, ecco, non c'era, ripeto, non c'era, non, mai, ci doveva essere mai una stata, linea di continuità, mai con stata pronunciata una parola da Nostro Signore nei Vangeli sulla Chiesa, la gerarchia, l'infallibilità di un presunto mio successo. Mai. Sai che ieri su questo la gente ti ha mandato messaggi, forse ti avranno anche scritto, a dire: ecco Giannino che porta avanti, che propala queste teorie. No. Non sono un dotto della Chiesa. Sanno che San Paolo, che di fronte al governo delle comunità, infatti Tito e Timoteo, Creta, Efeso, le prime comunità sono mandati da lui, pensa che era così diciamo disinvolto San Paolo, che dovendosi porre il problema di uno e dell'altro, che solo per metà erano ebrei, a uno disse: beh, è meglio che ti circoncidi, perché io ti mando anche tra gli ebrei. E all'altro, che doveva andare tra i gentili, non tra gli ebrei, disse: no, tu non ti circoncidi, così facciamo vedere che non è necessario essere ebreo per essere cristiani. Come vedi, la Chiesa fin dall'inizio aveva delle vedute molto ampie. Oggi, caro Oscar, hai gioco facile, perché so che le parole del Cardinal Bagnasco forse non ti sono piaciute tanto, quelle per cui ha detto il Cardinale che non ha mai citato il Family Day e non ha mai citato la legge esplicitamente. Non parlava di quello, come è evidente. Ha detto: i figli non sono un diritto. Vogliamo sentirlo? I figli, il loro vero bene deve prevalere su ogni altro, poiché sono i più deboli ed esposti. E su questo non sono mai un diritto. Eccolo qua. Poiché non sono cose da produrre. Non sono mai un diritto perché non sono cose da produrre. No? Questo è il passaggio. È il titolo che trovate più sui giornali. Se si pensa ai bambini, cioè ai soggetti deboli, siamo d'accordo? Sì. Per chi li ha avuti in rapporti precedenti all'unione civile, pensare ai diritti, cioè ai bambini, significa appunto consentire loro di avere dei punti di riferimento stabili. Quindi dalle premesse di Bagnasco deriva una conclusione opposta alla sua. Tu usi la sua argomentazione per arrivare, bambini, certo, per arrivare alla conclusione opposta. Vabbè, non credo che sia la conclusione a cui voleva arrivare lui, no? Credo che si dimostra ragionevolmente. Lo dico con piena apertura, che c'è maggior rispetto dei bambini a non consentirgli un rapporto stabile, diritti stabili, ma tenerli fuori nel caso in cui siano nati precedentemente, ripeto, la stepchild adoption, stiamo parlando di questo, alla costruzione di un'unione civile, sono disposto a accettare una sfida. Qualcuno deve dimostrare che il bambino sta meglio se il rapporto è negato. Se qualcuno però che ha un'idea di cos'è un bambino, se ne parla in teoria, perché non ne ha mai visto uno e non ne ha mai fatto uno, comunque noi vogliamo chiedervi in maniera proprio brutale, ma anche semplicistica, ma non semplice, se secondo voi c'è un'ingerenza della Chiesa, no, su questo. Chiamateci 800 24 00 24. È in piena legittima esposizione di un'opinione libera, perché voglio dire, Bagnasco ieri ha premesso che le parole che diceva non è che erano parole per imporre niente, però anche la Chiesa, e questa è la argomentazione che porta avanti chi sostiene la legittimità di queste parole, a dire, può dire assolutamente la propria, soprattutto in un paese largamente ci battiamo ulteriormente perché ognuno possa dire la sua. Il problema è semplicemente non esercitare pressioni proprie sul Parlamento italiano. Bellissima la casualità con cui il Financial Times oggi dedica un graffiante editoriale nella pagina editoriale edizione internazionale il cantiere mai compiuto della riforma bancaria vaticana, le finanze della Santa Sede col cavolo che sono trasparenti abbastanza. Ma questo cosa c'entra con le unioni civili? E traduco col cavolo, perché l'espressione inglese are nowhere near transparent enough vuol dire proprio col cavolo. Molto interessante che questa coincidenza. Approfitti di questa coincidenza per ricordare che col cavolo che hanno conti trasparenti questi signori che fanno le prediche sulla morale. Eccola là, ma secondo te è una predica quindi quella di Bagnasco? No, si chiama l'omiletica, è la loro specializzazione, allora, l'arte delle però prediche. Ti chiedo, è un'ingerenza in quelli che sono i lavori parlamentari? Bagnasco, come si vede, è stato molto attento rispetto a Ruini, che ha detto questa legge non deve passare. Sì. Ecco, Ruini non è stato per niente attento. Quelle di Ruini secondo me sono ingerenza patente, plateale, intenzionale. Bagnasco ieri ha usato apposta, come hai detto tu, non ha citato il Family Day, sì, sabato, il Parlamento, quindi si è tenuto su una linea, diciamo, di ipocrita. Però cioè, se nel momento in cui Bagnasco parla e dice la sua dicendo è la posizione della Chiesa, sì, questo benissimo. Questo benissimo, cioè nel senso che ha diritto a parlare, ma ti dirò, perfino il cardinal Ruini a dire secondo me questa legge non deve entrare, basta avere il dovere di non ascoltarlo, se come istituzione, Stato e come parlamentari che devono essere laici e non rispondere agli ordini di un cardinale. Della gerarchia, lo ricordiamo, credenti, è quello che esiste solo la famiglia di diritto naturale, cioè eterosessuale, procreativa e indissolubile. Altro conto, come ha fatto Ruini, è dire in Parlamento questa legge non deve arrivare e non ne deve uscire. A mio parere, questo è il senso. Ma non è questo, secondo me, non dovrebbe no, arrivarci. Per i rapporti che abbiamo con un'intelaiatura di strumenti internazionali con la Santa Sede, chi fa parte della gerarchia ecclesiastica non può e non deve parlare così del corpo di legge della Repubblica Italiana, così come sarebbe del tutto improprio se il presidente della Camera o del Senato parlasse dei motu proprio papali, capisci? O di come devono regolare il loro codice, o di chi devono scegliere in conclave, di chi lo Spirito Santo deve indicare in conclave. Quando c'è come una Papa. Storia complessa, e soprattutto i rapporti reciproci sono legati da trattati, bisogna sapere che le parole si misurano. Vogliamo chiederlo, in realtà noi l'abbiamo chiamata per parlare di un tema diverso, cioè che è l'Iran, ma vogliamo approfittare a chiedere a Emma Bonino, ex ministro degli esteri, buongiorno e grazie per essere con noi, anche un parere su questo, insomma, su questo dibattito sulle unioni civili. C'è ingerenza da parte della Chiesa secondo lei, Bonino? No, secondo me la Chiesa fa il suo mestiere adesso, non è che possiamo pretendere e non sarebbe neanche giusto. La Chiesa parla alla coscienza dei credenti e dice non divorziate, non altro. Era l'epoca in cui la Chiesa diceva appunto il Parlamento non può, eccetera. Quindi io ritengo che la Chiesa fa il suo mestiere, i credenti pure, chi li vuole ascoltare, si rivolge appunto ai credenti, ma compito delle istituzioni è altro, compito della politica è quello di stabilire le regole in cui in un paese possono convivere credenti, non credenti e diversamente credenti. Questo è il compito della politica. La Chiesa poi fa ovviamente il suo mestiere, quindi mi piacerebbe che non usassimo quest'alibi, perché non siamo ai tempi di Ruini che entrò in campagna elettorale direttamente sul referendum, lo slogan era sulla vita non si vota, non so se vi ricordate, e quindi per far fallire il quorum, cosa che gli riuscì e fu una mossa politica molto, molto calcolata. Ma che la Chiesa faccia il suo mestiere e si rivolga appunto i credenti, cercando di ma a me pare legittimo. Assolutamente legittimo. Allora, Emma Bonino, l'abbiamo chiamata per la vicenda Iran, c'è il presidente iraniano sempre, qui. Sempre di teocrazia parliamo, però in una teocrazia che questa di Oscar volta Giannino. No, teocrazia che però pratica la pena di morte, non rispetta i diritti civili perché e politici. Il tema è questo, Emma Bonino, abbiamo firmato 17 miliardi, l'Iran sappiamo, l'accordo che pone fine alle sanzioni, la grande apertura. Ci si chiede fin dove bisogna spingersi nel rispetto reciproco dei diritti umani quando si fanno affari con questi paesi. Si è parlato dell'Arabia Saudita, ora dell'Iran. Ecco, qual è il limite da non superare, secondo lei? Ma la mia opinione è che la promozione dei diritti umani è un processo e non è un evento. E penso che la questione dei diritti umani vada posta da parte nostra in tutti gli incontri, come peraltro vi posso testimoniare di aver fatto direttamente in Cina come in Iran. Ritengo però che da questo punto di vista, esattamente come altrimenti ovviamente negoziamo con la Svezia forse, e in termini di violazione dei diritti umani sull'Italia e chi ha, come dire, accordi con l'Italia, anche noi stessi italiani dal punto di vista delle carceri e della giustizia ingiusta e della giustizia lunga su cui siamo condannati dal Consiglio d'Europa, insomma anche noi abbiamo delle riforme da fare che non, che non facciamo. Credo però che quello che va evitata è l'autocensura, perché per le esperienze che io ho almeno con gli iraniani, la nostra posizione sui diritti umani e quindi viene molto rispettata. Noi abbiamo già avuto due sessioni a mia richiesta sulla pena di morte dell'incontro Italia-Iran, prima a Siracusa e poi in Iran stesso. E peraltro segnalo che prima del gelo, delle sanzioni eccetera, c'era un dialogo strutturato tra Unione Europea e Iran proprio sui diritti umani che io spero l'Europa riprenda e faccia valere. Ma quello che va evitato è l'autocensura. L'autocensura. Quello di, perché non ce lo chiedono neppure, se mi posso permettere, e hanno, come dire, ovviamente opinioni diverse, ma è proprio da questo incontro, da questo dialogo così franco, secondo me, tenga anche presente che c'è un'opinione pubblica in Iran, nelle grandi città, molto sveglia, molto acculturata, che aspetta proprio che noi in qualche modo non ci autocensuriamo, ma da lontano, come dire, con loro e con questa opinione pubblica stabiliamo un ponte. Se nella sua esperienza, Emma Bonino, il fatto che Rouhani inizi il tour, insomma, in cui si firmano i contratti con tutti i maggiori paesi europei proprio dall'Italia, significa che noi abbiamo un ruolo anche più riconosciuto in qualche misura di influenza su alcune di queste questioni più rilevanti, cioè un domani, grazie a queste tecnologie all'impiantistica di cui loro hanno più bisogno, cioè noi ne abbiamo molto bisogno di venderli, però loro ne hanno proprio più bisogno di noi per acquisirle, che non le hanno. Potremmo, secondo lei, esercitare una pressione su qualche caso rilevante, simbolico, di intellettuale o di scrittrice o di riformista politico che è sotto invece i colpi della repressione in Iran? Provarci almeno, secondo lei? No, innanzitutto ci dobbiamo provare, essendo inteso che, come lei sa, come nessuno tocchi Caino, io sono un po' sempre resistente a fare una campagna ad personam, se non appunto dal punto di vista simbolico, perché fare una campagna per una persona significa un po' dimenticare tutte le altre, quando quello che noi sappiamo che avviene in Iran è che il giudiziario è l'apparato, diciamo, più reazionario, in qualche modo è l'apparato, oltre alla guardia presidenziale, è l'apparato anti-Rouhani, per intendersi, insomma. Ora e hanno elezioni a febbraio e l'Iran diversamente. E pare che però i candidati di Rouhani siano stati eliminati a bizzeffe dal Consiglio dei Guardiani della lista. Sì, molti sono stati eliminati, altri sono stati accettati, quindi non sarà la tornata elettorale di febbraio non è una passeggiata per Rouhani. Noi saremmo ben avvisati di guardare bene cosa succede, perché appunto il giudiziario e la Guardia Presidenziale sono due apparati reazionari ma molto potenti nell'Iran. È chiaro che è un processo ed un rischio, ma personalmente, senza autocensure, preferisco questo dialogo trasparente e in relazione con l'opinione pubblica iraniana che non, come dire, la cortina di ferro o l'esclusione. Sì, il muro contro il muro. Anche perché chi è fautore dell'apertura dice l'Iran può aiutarci in Siria. Se lei è d'accordo, in che cosa può aiutarci a risolvere il caos siriano? Ma, sa, il problema è che l'Iran è parte del problema, come altri, e non ha nessun senso non chiamarlo alla sua responsabilità di essere anche parte della soluzione. È evidente che è costretti ad un tavolo, peraltro vogliamo dire che se oggi non è ripreso o ieri la conferenza di Vienna non è esattamente dovuto all'attrito sunniti, sciiti o Iran, ma è dovuto al fatto che non c'è accordo tra i sunniti sulla lista dei cosiddetti ribelli, cosiddetti moderati, che dovrebbero partecipare alla conferenza di Vienna. Quindi torniamo a una guerra intrasunnita tra turchi da una parte, Arabia Saudita dall'altra, Qatar e compagnia bella. Ma quello che io semplicemente ritengo è che chi è parte del problema, e lo è, l'Iran evidentemente, deve essere responsabilizzato e non lasciato dietro, indisturbato dietro una cortina di ferro. Detto questo, le scelte politiche sono sempre un rischio. Io penso che questa apertura prudente all'Iran sia un rischio calcolato, è bene compiere e praticare. No, questo e per quanto riguarda il nucleare, io preferisco, pure probabilmente nella loro non perfezione, ispezioni e controlli piuttosto che di nuovo situazioni come Pakistan o anche India che hanno la bomba nucleare senza controlli, senza far parte del trattato, e quindi non sono neanche sottoposti né a controlli né a rendiconti né a missioni ispettive di nessun tipo. Va bene, allora noi ringraziamo Boni, ricordiamo tutti che siamo alla vigilia della giornata della memoria. A me è piaciuto, devo dire la verità, che nella conferenza stampa di ieri sera con Rouhani il presidente del Consiglio italiano Renzi abbia esplicitamente, con una pausa, certo, citato Israele e il suo diritto all'esistenza. Secondo me anche questa è una partita su cui l'Italia non deve avere dubbi. Ricordiamo a tutti che Teheran nega il diritto all'esistenza di Israele in Medio Oriente nei suoi equilibri, quindi è un punto delicatissimo. La ringraziamo Emma Bonino, grazie per essere stata con noi. E, sono le 8 e 35 minuti. Non credevo. Cardinale, cioè, sarebbe lei a dover fare questo. Cari fratelli, ascolto, preghiamo. Era un tono della preghiera. Può essere, fratello, farlo. Era il tono della preghiera? No. Era un tono un po'. No, c'era un tono, sì, avevi queste manine solenne, le manine solenne, giunte. Sembravi il cardinale scuola. Sono le 8:35, esatto. Adesso le mani un po' protese in avanti. Sì, nelle borse di qualcuno. Non preghiamo, ma assistiamo alla pubblicità in rigoroso silenzio. E poi avremo Roberto Maroni, governatore della Regione Lombardia. Un po' di zolfo tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Siamo qui alle 8:40 minuti, caro Oscar. Eccoci pronti. Allora, vogliamo tornare un po' a parlare di unioni civili. C'è stata questa polemica di cui abbiamo parlato nel weekend, perché il Pirellone, che è il palazzo ex Regione Lombardia, ma sempre di Regione Lombardia, il palazzo più conosciuto, uno dei palazzi più conosciuti nello skyline milanese, prima dei nuovi grattacieli Unicredit, era proprio, è vero. È stato illuminato con un gioco di luci, di finestre accese di notte, per formare la scritta Family Day. Perché il governatore Maroni sarà al Family Day. Roberto Maroni, buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti. Ci sarà? Sarà lì in piazza? Sì, certo. Però la polemica l'ha seguita anche lei e le obiezioni le ha colte anche lei. Si dice, ma come, quello è il palazzo di tutti, anche di coloro che non sono per il Family Day. La distinzione è tra la sua piena libertà, che nessuno può contestare, di esprimere un'opinione sul tema, quindi a favore della famiglia naturale, articolo 69 della Costituzione, contro le unioni civili, però l'utilizzo di un bene che appartiene all'istituzione, con la regione, le istituzioni sono di tutti, usarlo come strumento di una campagna di una opinione contro un'altra, mi sembra che sia una cosa del tutto scorretta. Che risponde lei? Ma il comune, il sindaco di Milano ha illuminato la facciata del comune di Milano con i colori arcobaleno della manifestazione di piazza di sabato. Domanda: perché il comune di Milano può farlo e la regione Lombardia no? Risposta: ma se uno fa un errore, perché replicare l'errore? No, non è un errore, non è un errore, è la doppia morale della sinistra. Se lo fanno loro si può fare, se lo faccio io no. La presidente della Camera, Laura Boldrini, non dovrebbe essere la presidente di tutti? Domando. Certo. Ha detto e si è schierata apertamente contro il Family Day l'altro giorno. E quindi perché lei può farlo e il Presidente della Camera può schierarsi da una parte e il Presidente della Regione non può schierarsi dall'altra? È il doppio pesismo della sinistra, a cui io rispondo in questo modo: non solo continuerò a fare quello che ho fatto, ma la prossima volta illuminerò anche il l'altro palazzo della Regione, Palazzo Lombardia, ok? Però mettiamo tutti tranquilli. Però Presidente, il mio punto di vista, sono Alessandro Milan, è che se ha sbagliato evidentemente, cioè è sbagliato anche quello che ha fatto il Comune, nel senso non è questione di destra o sinistra. Scusatemi, ma perché è sbagliato? Io ce l'ho nel programma elettorale, nel mio programma elettorale, il sostegno della famiglia, così come previsto dall'articolo 29 della Costituzione italiana, e cioè che recita: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con una mamma e un papà, non con due mamme o due papà. E io ce l'ho nel programma elettorale e quindi ho tutto il diritto di fare quello che ho fatto. Ci mancherebbe altro. Quindi continuerà, insomma, anzi la prossima volta lo farà anche con l'altro palazzo. Raddoppia, certo. Non lascia ma raddoppia. Esatto. Senta Presidente, non crede che sia, si discuteva prima, il Cardinal Bagnasco ha detto più diritti per i bambini, non crede che sia più un diritto per un bambino nel caso per esempio di una coppia omosessuale che venga anche adottato dal partner dello stesso sesso, piuttosto che non essere riconosciuto, piuttosto che essere abbandonato, piuttosto che questa persona che magari l'ha cresciuto non abbia nessun dovere e diritto nei suoi confronti? No, non credo che sia giusto per un bambino avere due mamme o due papà, tutto qua. È una cosa innaturale. E dopodiché c'è la questione dei diritti, va benissimo, io sono per i diritti di tutti, ma ci mancherebbe altro. Qui il discorso è diverso, è equiparare alla famiglia naturale, così come prevista dalla Costituzione, che è la nostra storia, la nostra cultura, la nostra civiltà, un istituto, un'istituzione, qualche cosa che è diverso. L'utero in affitto vuol dire: io ho diritto di avere un bambino, non posso averlo, bene, prendo una donna qualsiasi e le faccio procreare, poi il figlio me lo prendo io. Vogliamo dire che questa è la stessa cosa della famiglia? Questo, io dico di no. Questo però, dopodiché, come sai, discutiamo Italia è negato, però questo in Italia è vietato, si deve, infatti, andare all'estero. Ma è previsto nel DDL Cirinna, è per questo che noi siamo contro il DDL Cirinna. Dopodiché parliamo dei diritti di convivenza, di assistenza, di successione. Lì benissimo, già ci sono molti di questi diritti garantiti anche a chi non è sposato, ma il matrimonio, la famiglia è un'altra cosa. Mi è piaciuta molto, prima di entrare in trasmissione ho sentito la pubblicità, c'era la pubblicità che faceva riferimento alla famiglia: fai crescere la tua impresa come la famiglia. E in Lombardia tantissime, la maggior parte delle imprese sono imprese familiari. No, questo collegamento è importante e riconosce che la famiglia è quella lì, poi c'è il resto, ma il resto è un'altra cosa. Se discutiamo di questo e se accettiamo questa distinzione, noi siamo pronti a discutere di tutto, ma equiparare alla famiglia qualche cosa che non c'entra niente con la famiglia non mi sta bene. Però chiariamo un punto, perché lei ha detto è previsto nel DDL Cirinna che non prevede l'utero in affitto in Italia, perché lei dice è previsto? Cioè, era previsto ed è quello che qualcuno vuole mettere, ovviamente, quindi a scanso di equivoci diciamo che una roba del genere non sta né in cielo né in terra. Questo senza dubbio. Presidente Maroni, parliamo di altro, per esempio sul fronte immigrazione. Lei che ne pensa di quello che sta succedendo in Europa? La Lega ha sempre detto che bisogna ripristinare le frontiere, quindi adesso, visto che c'è questa possibilità, esultate? Perché qualcuno dice che questo è l'inizio, sarebbe l'inizio della fine dell'unità europea. Anche dell'euro. In toto, anche dell'euro addirittura. È vero, la fine di Schengen vuol dire la fine di questa Unione Europea, così come è organizzata adesso, perché era un'unità di paesi all'interno dei quali non c'erano più confini. Se viene meno questo, viene meno lo spirito unitario dell'Unione Europea. Io non esulto, prendo atto di due cose. Primo, che quando lo dicevamo noi eravamo considerati i soliti beceri razzisti, e adesso lo fanno i paesi e va bene, lo fanno i governi e va bene così. Secondo, sono preoccupato perché non esulto per il venir meno dell'Unione Europea. Voglio costruire un'Unione Europea diversa. E quello che stiamo facendo ieri e oggi qui in Slovenia, a Brdo, i giornali non ne parlano, perché quando c'è una cosa importante no. I giornali difficilmente ne parlano, parlano solo di polemiche. A Brdo ci sono i presidenti di 48 regioni, i 7 ministri degli esteri di 7 paesi, 2 commissari europei, perché nasce la macro regione delle Alpi, la macro regione alpina, la Mitteleuropa, una nuova dimensione che raggruppa, come ho detto, 7 paesi, 8 regioni italiane, tutta la Svizzera, che è un paese extracomunitario ma partecipa alla macro regione. Questo è il nuovo modello, questa è la nuova Europa, l'Europa delle regioni omogenee, di aree omogenee. No. Allora, vedremo questo, però intanto io penso che se torniamo alla liretta, altro che l'Europa omogenea, finiamo in fondo al Mediterraneo e c'è la bandiera nera sull'Italia della liretta, ma questa è la mia opinione su quello che considero un vostro. No, ma io la condivido, Però detto questo, sulle aree omogenee sono d'accordo, e lei ha anche ragione a dire che quando voi parlavate dei rischi che Schengen non andava bene eccetera eccetera era razzismo, di bieco razzismo, adesso lo fanno i governi e diciamo l'errore della Germania, insomma questo sì, io glielo riconosco in pieno, ha perfettamente ragione. Andiamo un secondo a un punto che riguarda sì non solo i milanesi ma è anche un punto di politica nazionale. Le faccio una domanda. Sala, l'ex capo di Expo, candidato adesso alle primarie e poi se le vince come sindaco della sinistra a Milano, qua ci sono grossi pasticci che riguardano il denaro di tutti sul bilancio di Expo, perché Sala è molto restio a rispondere a quelli nel PD che lo fanno a pezzi sui giornali oramai, perché il giornale di oggi lui dice Expo si è chiuso con un patrimonio netto di 14,2 milioni, altri della stessa sinistra, del centro-sinistra, e nel PD gli dicono ma guarda che qui ci sono 200 milioni di perdite alla fine. Io le chiedo, come presidente della Regione Lombardia, da una parte lei ha qualche cifra per fare capire qual è il bilancio finale di Expo, uno, due, quanto la mette in imbarazzo Sala, exit manager di un sindaco di destra, ex manager di riferimento per tutti a Milano, che diventa il candidato della sinistra? Ma nessun imbarazzo, prima bisogna vedere se le primarie le vince, perché non è affatto scontato. E dopodiché uno fa le sue scelte. Io rivendico la mia coerenza di essere stato sempre in un solo partito, di non aver mai cambiato casacca. Lui invece, chi cambia, vabbè. Ma ragazzi, sui soldi di Expo? Io sono stato 2 volte in Serie B con il Milan e ho resistito, no? Perché la fede quello, è la fede. Quello sempre, Maroni, non scherziamo sulle cose serie. Su Expo, io sono azionista della società Expo e quindi aspetto l'assemblea del 29 perché voglio anch'io capire quali sono i numeri. Per esempio, ho visto un documento da cui risulta che Expo vanta crediti di decine di milioni di euro nei confronti di altri azionisti. Non capisco perché io ci ho messo tutti i soldi e altri azionisti no. Il 29 c'è l'assemblea e lì andremo noi agguerriti, perché in quell'assemblea si dovranno spiegare tutti i conti. Dopodiché decideremo nuovo consiglio di amministrazione, liquidazione della società. Proprio questo lo volevo dire, ma all'assemblea del 29 entra il governo e gli diamo la presidenza per consentire di utilizzare l'area dell'Expo per il post-Expo, oppure è ancora un problema irrisolto i rapporti tra le istituzioni milanesi e lombarde e il governo nazionale sul futuro dell'area? Si parlava di una grande città della scienza, della ricerca, dell'impresa. No, sono due cose diverse. Expo SPA, il governo è già dentro. Il governo non è dentro in Arexpo, che è l'altra società che è la proprietaria dei terreni. Expo SPA si è dimesso Sala, si è dimesso Labracco, si è dimesso il rappresentante del governo, quindi il 29 noi dovremo decidere se rinnovare il consiglio di amministrazione o nominare dei liquidatori che come prima cosa vadano a scutere i crediti che la società ha ovviamente. Arexpo è un'altra partita e lì stiamo spero presto, chiudendo con il governo, l'ingresso del governo nella società. Sì, io non sono contrario, anzi. Però aveva dei dubbi, li ha espressi chiaramente, ha detto non ci vengano qui a dire cosa dobbiamo decidere noi. Ma certo, allora, non esistendo ancora l'esproprio proletario in Italia, come mi no, pare. c'è l'Ilva. Ecco, fantastico. È quello che io non voglio, è quello che temo. I terreni sono di proprietà di una società di cui la regione è socia e il governo no. Non può il governo venire a dire i terreni tuoi decido io che cosa farci, giusto? Allora entri nella società alle mie condizioni, coinvolgi il mondo scientifico lombardo e non solo, non è che viene l'ITI di Genova, per l'amor di Dio, prestigioso istituto, e dice alla statale di Milano o agli istituti di ricerca lombardi come si fa la ricerca. Mi pare che insomma dovete ancora parlare, dal tono diplomaticamente rugginoso mi pare di capire. Cioè più che altro le condizioni le vuol dettare lei, questa in sostanza. Esatto, certo, assolutamente, sono io il proprietario dei terreni e quindi chi deve dettarle? Certo. No, ma guardi che stiamo lavorando già intensamente da molto tempo. Io penso che entro metà di febbraio si chiude tutto, nel senso positivamente, non è che si chiude. Il governo entra, si lancia il progetto Human Technopol con la partecipazione delle università lombarde, degli istituti di ricerca, delle IT di Genova. Siamo a buon punto, abbiamo lavorato molto in questa direzione. Allora la ringraziamo, grazie, intanto presidente. Roberto Maroni, grazie Presidente della Regione Lombardia, grazie per essere stato con noi. È finito due volte in Serie B, guardi che oggi giochiamo contro una di Serie C, l'Alessandria. Forza Grigi, eccola. Forza Grigi. Ma ancora te con la favola dell'Alessandria. Basta, le favole, sei grande per le favole, Oscar, anche tu. Sei grandicello. Un campione incredibile, dai, vuoi negare quel campione? Ma no, non si come che si chiama, che finisce come si chiama il bomber che ha fatto due gol. Questi non sanno come si chiama, guarda, volete anche occuparmi di calcio, ma è pazzesco. Vabbè qua non so, c'è spazio forse per Giorgio da Rimini, però deve essere breve, Giorgio, per cortesia, che sennò ci sfumano. Sì, pronto. Ve lo dico, diciamo che mi trovo d'accordo al 100% con questo Maroni, anche se non l'ho mai votato. È una famiglia, è fatta di uomo e donna, è una questione naturale. No, assolutamente, cioè, vuol dire contro natura, al di là della fede, cioè, come dire, non c'entra niente la fede qui. Ma certo che non c'entra niente, Giorgio, la fede, siamo c'entra il fatto che siamo l'unico paese europeo che non riconosce unione di fronte alla legge. È ora diciamo di smettere che solamente i laici hanno il diritto di dire. Diritto di dire tutti. Questa è la maniera che respingo. I laici non parlano delle leggi della Santa Sede e loro non devono parlare della Repubblica, che è di tutti. Loro si battono per le loro opinioni, non devono dire, gli esponenti della gerarchia, questa cosa in Parlamento non deve uscire, punto. Eccoci qui. Allora, ci dobbiamo fermare, caro Oscar, a domani, forza Grigi, forza, ma basta le favole, basta. No, adesso ti spiego, il centravanti dei Grigi che me ne fa due, dai, su. Continuate con Radio 24 e appuntamento alle 4:30 con la versione di Oscar.